I numeri, innanzitutto, i contagi hanno superato quota 10.000, i malati sono al momento 8.500, ma mancano i dati di una parte della Lombardia. Sono 877 le persone in terapia intensiva, 630 i morti. È proprio la Lombardia, appoggiata da Piemonte e Veneto, a chiedere misure più dure. Chiudete tutto, lasciando aperti solo supermercati e alimentari. Il governo si riunisce oggi per valutare, tra l'altro, le misure economiche, ma ovviamente non è escluso che si parli anche di questo. Si contano nel frattempo 12 morti durante le rivolte nelle carceri, tutti per overdose, dopo i saccheggi delle farmacie interne. 600 posti letto distrutti, 35 milioni di euro di danni. C'è altro? Sì, ma tutto collegato. Biden vince la sfida delle primarie in Michigan, Missouri e Mississippi, ma cancella comizi in Ohio e Florida per timore del virus. L'Atalanta gioca a Valencia e passa il turno, ma in una situazione surreale nella quale non si sa quali partite si giocheranno e come. La Premier intanto cancella la sua prima partita, è City-Arsenal. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Sono le 6, 30 minuti, 12 secondi di mercoledì 11 marzo. Care amiche e cari amici, eccoci, siamo tornati, siamo qua. Stiamoci vicini, anche se alla distanza, da distanti, Stiamoci vicini. Fatemi sentire la vostra voce al 349-238-6666 con SMS, messaggi su WhatsApp, ma soprattutto messaggi WhatsApp audio. La vostra voce in questi giorni è importante. Il racconto di queste vostre giornate. Come la state vivendo, come la state passando, anche quali sono le vostre domande sui provvedimenti che sono stati presi. E oggi cercheremo di dare qualche risposta. Ci proviamo? Ci proviamo. Se la trovo, una cosa bella al giorno. Una cosa bella al giorno. E la cosa che mi piace di più di questi giorni sono i post-it che iniziano a girare, che si trovano ogni tanto sulle macchine, sui citofoni delle case. È un post-it con un cuoricino disegnato e con scritto "Andrà tutto bene". È così, un gesto di solidarietà anonimo, dato ad un anonimo, ad un'altra persona. È un piccolo segnale. Siamo sempre in diretta su Facebook, ci trovate su Twitter, su Instagram, ci siamo. Con Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione e anche la nostra radio che piano piano si sta svuotando con colleghi sempre più spesso in smart working, e poi vedremo come procedere anche con 24 Mattino. Vi daremo aggiornamenti, è ovvio, vi daremo aggiornamenti e vi faremo sapere. Che giornata è stata? È stata la giornata del consueto bollettino, e un bollettino che però ci dice poco oggi. Perché ci dice poco? Perché mancano i dati di una parte della Lombardia. Tra l'altro alle 8.20 avremo ospite l'assessore Gallera e ci faremo spiegare un po' meglio. C'è un'ipotesi, una richiesta dalla stessa regione Lombardia di misure più stringenti. Le chiede direttamente il presidente Fontana, sentiamolo. Noi abbiamo insistito per che il governo valutasse ancora una volta i dati che gli abbiamo mandato, che costantemente continuiamo ad inviargli, ma che valutassero anche tre altri aspetti che credo siano fondamentali. Il primo è quella, è la lettera dei sindaci a cui ho fatto riferimento. Il secondo è la richiesta che è stata presentata da tutti tre sindacati principali, in cui dichiarano esplicitamente di valutare la possibilità di misure più rigorose, e in fondo anche la valutazione di una serie di categorie imprenditoriali favorevoli a stringere le misure, ad arrivare anche ad una sospensione temporanea di ogni tipo di attività. E c'è un'ipotesi, lo dice lo stesso assessore Gallera, di chiusura anche dei trasporti pubblici. Noi peraltro avevamo già chiesto di chiudere tutte le attività commerciali, perché se io devo andare in ufficio e tornare non posso fermarmi a fare shopping, e se no la gente non lo capisce. Ma forse è arrivato anche il momento di inasprire ancora di più il tema delle attività produttive, forse anche il trasporto. A questo punto chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia, io vivo questa realtà, non voglio giudicare il resto d'Italia, può servire, lo dicono gli esperti, a veramente ridurre o bloccare la diffusione del virus. Ecco. Nunzio da Vicenza mi scrive: con i miei figli stiamo facendo uno striscione con la scritta "andrà tutto bene" e un arcobaleno da attaccare al nostro poggiolo, ossia al balcone. Non male, non male. Sulle misure più stringenti, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Io credo che questa sia una richiesta che deve essere comunque vagliata, considerata e valutata. Quindi sotto questo profilo io non ho elementi ora da fornire su questa richiesta. Vedremo nei prossimi giorni. Ieri l'incontro con le opposizioni da parte del governo, il presidente Conte ha incontrato le opposizioni, pare che ci sia stato un incontro piuttosto freddo, nel quale però le opposizioni hanno sostenuto la linea rigida Giorgia Meloni sul chiudere tutto subito. Abbiamo chiesto misure chiare, certe, definitive. Arrivati al punto in cui siamo, riteniamo che sarebbe probabilmente più utile chiudere tutto per 15 giorni, garantendo un piano di misure ovviamente per i servizi di prima necessità, però il rischio che si debba arrivare a una misura di questo tipo, magari fra altri 15 giorni, significa aiutare il contagio per poi comunque dover prendere delle misure rigide. Allora, se quelle misure si prende in considerazione di portarle avanti, noi riteniamo sia meglio farlo immediatamente. E Salvini, sempre su questo tema. Finalmente qualcuno ci ha ascoltato. Esco preoccupato. Perché abbiamo portato al tavolo la voce di medici, sindaci, governatori, genitori, imprenditori, lavoratori che chiedono misure forti, certe, drastiche, subito, senza eccezioni, senza dubbi, senza interpretazioni. Chiudere tutto adesso, salvando i settori strategici dal sanitario alle forze dell'ordine all'alimentare, per ripartire sani tutti insieme fra poco, la risposta è stata no. E quindi c'è ancora totale incertezza, chi lavora, chi non lavora, chi apre, chi chiude, l'autocertificazione, la volontà, il negozio, il taxista, il parrucchiere. I nostri ospiti di oggi: Susanna Esposito è presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici ed è anche professore di pediatria all'Università di Parma. Buongiorno professoressa Esposito. Buona mattina a tutti. E buongiorno ad Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, siamo in provincia di Varese, ma è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Buongiorno Castellone, ci aiuterà un po' a rispondere a domande degli ascoltatori che stanno arrivando, ci sono arrivate anche nella giornata di ieri, e che insomma hanno dei dubbi su quello che possono o non possono fare. Castellone, eccoci. Ci sono. Immagino che qualche dubbio lo abbiate anche voi, questo lo immagino bene. Allora, però partirei dalla professoressa Esposito, chiedendole, professoressa, se insomma l'idea di chiudere tutto in Lombardia, in sostanza lasciare aperti solo alimentari e supermercati, uno scenario alla Wuhan, per intenderci, è lo scenario giusto, secondo lei l'opzione giusta da praticare? Il problema con questa infezione è stata che inizialmente la responsabilità della gente è in parte venuta meno e quindi a mio avviso parole come responsabilità e attenzione sono parole essenziali per permettere il contenimento del contagio. Le notizie buone arrivano indubbiamente dalla Cina, ma anche dall'area di Codogno, dove la chiusura di tutto ha portato al contenimento del numero dei casi e al trend di riduzione della curva dei soggetti positivi. Questo però, a mio avviso, deve andare di pari passo ad altre misure che dovrebbero essere effettuate in maniera altrettanto massiva, come per dire la possibilità di eseguire tamponi, di screenare potenziali persone infette in maniera molto più capillare di quanto viene fatto ora, perché un conto è dire a una persona sei positivo e stai a casa fino a che il virus è scomparso, un altro conto è lasciare persone in quarantena senza che sappiano se sono positive o no. Uno scenario, mi scusi Esposito, uno scenario alla coreana, alla sudcoreana intendo, no? Perché là stanno facendo, viaggiano ormai intorno ai 200.000 tamponi fatti, 200.000 passa tamponi fatti, e stanno riuscendo a contenere l'epidemia in una maniera efficacissima. Infatti, nel senso che se guardiamo oltretutto i dati di mortalità, l'Italia risulta essere il paese con la più elevata mortalità, più che doppia rispetto alla stessa Cina e comunque 6 volte di più rispetto a quello della Corea. Allora è chiaro che il fatto di dire a qualcuno tu sei positivo, questa persona resta sicuramente isolata, mentre lasciare l'incertezza non lo permette. E così pure è uscito proprio ieri un lavoro che dimostra come l'eliminazione del virus in chi ha dei sintomi dura dai 7 ai 37 giorni, con un tempo mediano di 21 giorni. Cosa vuol dire questo? Che magari in una serie di persone, se non viene controllata la negatività del tampone, la positività persiste anche oltre i famosi 14 giorni di quarantena. Quindi a mio avviso, da questo punto di vista, questo elemento sarebbe assolutamente prioritario anche rispetto a una chiusura integrale. Sono d'accordo sicuramente nella chiusura comunque delle attività commerciali, perché questo comunque limiterebbe gli spostamenti. Per quanto riguarda le attività di trasporto, anche nel mondo sanitario ci sono tanti lavoratori che devono comunque spostarsi dalla propria abitazione agli ospedali, e penso che in questi i servizi vadano garantiti. Sì, anche perché sugli esercizi commerciali, professoressa Esposito, anche perché ci dice giustamente qualche ascoltatore, ma insomma non è normale che mi dicono che non posso girare e poi lasci aperti i negozi di abbigliamento nei quali io effettivamente posso andare, i bar nei quali io posso andare. Tant'è vero, c'è un gruppo di ristoratori e non solo che ha detto: guardate, a questo punto, più che la chiusura alle 18, chiudiamo tutto effettivamente. Detto ciò, ma poi ne riparliamo con la professoressa Esposito. Detto ciò, un altro ascoltatore dice: ma qualcuno può garantire che dopo 15 giorni di chiusura totale si possa tornare ad una vita normale? A me pare proprio di no. Anzi, però ne voglio parlare con la professoressa Esposito tra un attimo. Intanto con Alfonso Castellone, appunto. Castellone, immagino siate piuttosto confusi anche voi, cioè anche la polizia locale è piuttosto confusa su cosa è un'effettiva prescrizione e cosa non lo è, e come far rispettare queste norme, se lasciamo stare nel decreto è espressamente prevista l'attività sportiva all'aperto, però concettualmente il concetto di corsetta, se una corsetta al parco è contro la legge oppure no, insomma non è facile nemmeno per voi, immagino, far rispettare queste regole. Effettivamente sì, spesso capita che il nostro legislatore scrive delle leggi senza tenere conto anche dell'applicabilità. Io vorrei che qualche legislatore sentisse la mitica nonna Rosetta di Casa Sorace per far spiegare a lei come funziona la cosa. Non si è capito bene qual era all'inizio l'intenzione. Quindi se l'intenzione è non può muoversi nessuna persona fisica, che venga detta a tirare lettere, perché come diceva prima, se mi consenti di tenere aperto il parrucchiere, dov'è l'indifferibilità della persona che deve andare dal parrucchiere e quindi sta uscendo di casa anche per essere limitare? Effettivamente l'incertezza, come è stato detto prima, è molto importante, è molto grave, anche perché le sanzioni a carico di chi non rispetta questo precetto sono particolarmente importanti. Si passa dal 650 del codice penale che prevede l'arresto da fino a 3 mesi, da 206, ma soprattutto... Castellone, abbiamo, mi pare, un piccolo problema audio, sul quale non so perché non riusciamo a sentirla bene, ce lo scrivono anche gli ascoltatori. Guardi, parto con una domanda, no? Alla vicaria da un ascoltatore. Visita oculistica non urgente, ci posso andare? Non ci posso andare? Allora, il fatto della non indesiderabilità lo si dice per quanto riguarda l'attività lavorativa, quindi non spetta all'organo di polizia verificare se tu sei uno che fa le pulizie o sei un operaio specializzato e quindi ha necessità, l'azienda ha necessità indifferibile per andare a lavorare. Questo lo dice. Però per quanto riguarda anche le altre visite, si fa riferimento a visite allo stato di necessità, come dire, non indifferibile. Quindi la visita oculistica sta sempre lì. Che persona sei? Sei una persona a rischio, quindi sei un oltre 65enne, assolutamente sei in un momento in cui magari c'hai l'influenza anche senza febbre, non andare. Sì. Quindi, vedo però dei rischi, per così dire, di margini di interpretazione che ci possono essere dalle singole polizie locali. Immagino dagli stessi sindaci, esatto, che poi emaneranno singole ordinanze, cioè rischia di diventare un problema vero questo. Assolutamente sì, anche se il decreto legge, anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dice qualsiasi ordinanza contingibile urgente fatta dal sindaco in contrasto con le normative non è nulla, non è valida. Sì. Però per esempio sul mio territorio si è stato deciso proprio ieri di chiudere i parchi e i giardini, perché prima che venisse emanato il decreto del 9 di marzo che ha chiarito che è vietato l'assembramento, ma anche qua bisogna chiarire cos'è l'assembramento, tre persone, due persone, no? Sì. Il sindaco ha deciso di chiudere i parchi perché i ragazzi che sono a casa e si riuniscono e non rispettano quella distanza di sicurezza che i nostri capisco. Allora andiamo sul traffico, vediamo se riusciamo a recuperare una linea decente con Alfonso Castellone. All'ascoltatrice che mi chiede: posso andare a curare i denti in ospedale? Rispondo direttamente io: ragazzi, se non andiamo negli ospedali per cose non estremamente urgenti in questo momento, francamente è meglio se avete presente com'è la situazione, lo dico in tutta franchezza. Il traffico, e poi torniamo alla professoressa Esposito con il tema di quanto può durare, insomma, 15 giorni, non 15 giorni, quanti saranno? Mattino. Allora, qua un ascoltatore dice: ma la finite di dire che i morti con altre problematiche sono morti per il coronavirus? Guardi, è una cosa che diciamo un po' dall'inizio, che questi, abbiamo tra l'altro la professoressa Esposito, adesso ci riparleremo, no? Che queste persone sono persone, le persone che sono morte, sono persone che avevano altri problemi sui quali si è innestato il coronavirus, si è innestata la polmonite da coronavirus e ha aggravato la situazione e ha portato alla morte. Spesso anziani con comorbilità, a volte con una, a volte con altre due patologie, diabete, problemi cardiaci e via dicendo. Tutto questo non vuol dire che non si possa avere una situazione grave anche se si è più giovani, professoressa. Ma sicuramente queste persone sono morte perché avevano il coronavirus, se no non sarebbero morte, sarebbero rimaste cardiopatiche, ipertese, obese, con le loro comorbidità, ma di fatto in quel momento sarebbero rimaste vive. Allora qua l'elemento che è stato sottovalutato è che, a differenza dell'influenza, colpisce sicuramente di più gli anziani, cioè colpisce maggiormente i bambini, ma negli anziani può essere impegnativa, è chiaro che nell'influenza gli anziani hanno gli anticorpi comunque, perché il virus, per quanto cambi, ha comunque delle parti simili a quelli che giravano in precedenza. Invece in questo caso si tratta di un virus completamente nuovo, e quindi il fatto che questo virus non solo sia nuovo e quindi l'anziano o comunque il soggetto a rischio sia suscettibile, ma determina una risposta infiammatoria molto elevata, ha portato nella popolazione anziana, che evidentemente è più fragile, a un'insufficienza multiorgano che poi è quella che porta al decesso. Anche i giovani, abbiamo visto, sono colpiti con forme respiratorie anche impegnative da richiedere la terapia intensiva, ma è evidente che il polmone di un giovane in terapia intensiva ha una capacità di ripresa molto più elevata di quella di un soggetto di una certa età, soprattutto se defidato da malattie croniche. Una reattività diversa, per così dire. Senta, Senta, professoressa, dunque sui 15 giorni, l'ascoltatore dice giustamente, ma chi ce lo assicura che dopo 15 giorni tutto si risolverà? Io temo, sinceramente, che andremo ben oltre il 3 aprile, poi per carità non sono un epidemiologo, non sono uno statistico, non sono nemmeno un virologo, un infettivologo, però insomma dall'impressione che stiamo ricavando, dai numeri che stanno arrivando, o diminuiscono drasticamente i contagi nei prossimi giorni, oppure mi sembra difficile una ripresa delle attività così a relativamente breve termine. No, è corretto quanto viene detto, perché noi dobbiamo considerare che a questo virus erano suscettibili 60 milioni di italiani e lo sono comunque ancora la gran parte di essi, visto che i contagi sono tra gli 8.000 e i 10.000 che gli si voglia. Proprio per questo e anche per l'evidenza oggi che la durata dell'eliminazione del virus dura nella maggior parte, cioè nel 50% dei casi più di 15 giorni, bensì 21, porta a far sì che la chiusura di determinate attività si associa a un sistema di tamponamento massivo molto più importante e non si fanno a quel punto circolare le persone positive che devono essere controllate fino a che si negativizzano, o la cosa non è fattibile. Consideriamo anche la difficoltà delle misure di isolamento, pensiamo a tutte le persone magari sole o alle persone anche non necessariamente sole perché anziane o per altre ragioni, ma magari chi lavora in città diverse dalla propria, non ha i genitori in presenza, non è semplice comunque stare al proprio domicilio davvero isolati. E quindi da questo punto di vista dire a qualcuno sei positivo e metterlo magari in ospedali che attualmente sono stati costruiti, che possono essere come appunto ospedali da cure non intensive piuttosto che le ex caserme che sono state trasformate in ospedale, è essenziale per far sì che ci sia il contenimento della diffusione dell'infezione. Quindi io penserei più che al concetto chiudo tutto e tutto quanto, chiudo tutto sicuramente perché ripeto certi esercizi non hanno senso, ma anche a quello di assicurare una tutela molto più importante di quanto fatto finora, viste le dimensioni che la diffusione dell'infezione sta prendendo. Sì. Un ascoltatore scrive: io faccio sport 4 volte a settimana in maniera intensa, sapete che vuol dire smettere di botto per il fisico di chi consumava, ma anche per le endorfine che ti trasmette lo sport. Guardi, non lo dica a me, io lo facevo 6 volte a settimana tra tennis, palestra, le corsette, e adesso ecco, Castellone, veniamo proprio a questo, molti ascoltatori ci chiedono la corsetta, il giro in bici, eccetera eccetera, sono cose che si possono fare, cioè sono previste dal decreto queste? Sono previste dal decreto, quello del 9 di marzo l'ha precisato, lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, per cui ci sono anche delle FAQ, delle risposte, già predisposte, che stanno uscendo fuori dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, per il quale dice sì, la corsetta va bene, non stiamo in gruppo, la bicicletta va bene, è chiaro che poi devi dimostrare se abiti a Oggiatolona e vai a 50 km di distanza, cosa stai facendo a 50 km di distanza da casa. Allora, questione nonni, posto che è meglio di no, perché gli anziani sono un pezzo di popolazione a rischio, però ci dice un'ascoltatrice, dice, guardate, io ho i miei... devo andare al lavoro io, deve andare al lavoro mio marito, abbiamo i nonni nel nostro stesso comune, ce li posso portare i bambini, non ce li posso portare? Come funziona? Questo rientra nello stato di necessità previsto anche dalla normativa. È chiaro che poi, e questo la dottoressa Esposito sarebbe molto più chiaro, è chiaro che il problema è poi siamo sicuri di non contagiare i nonni? E questa è la domanda che giustamente anche dal punto di vista medico ce lo si fa, però si può fare, così come si può fare i genitori separati, portare i figli dall'altro genitore, assolutamente sì. Altro tema, gli animali da compagnia, il cane. Ieri qualcuno mi ha insultato per questa storia del cane, però un ascoltatore ci ha detto io l'ho portato fuori, la polizia locale mi ha detto che non potevo, a Parabiago, siamo in area milanese. Tornando al discorso di prima delle incertezze, è proprio questo, cioè lo stato di necessità cosa vuol dire? Il cane deve fare anche i suoi bisogni, quindi assolutamente sì, da parte dell'indicazione che poi viene data sempre, per fortuna stanno uscendo fuori mano a mano delle l'interpretazione ufficiale è il cane deve uscire fuori a fare a fare i suoi bisogni e quindi lo può essere accompagnato, deve essere accompagnato. Anche lì attenzione all'utilizzo delle aree cani, per cui non andiamo a fare gruppo nelle aree dove normalmente magari si fanno gli sgambamenti dei cani, ma passeggio, il mio giro, siamo da soli, mantiamo le distanze, questo assolutamente sì. Assolutamente no, è una parola eccessiva, però diciamo che Perché l'assolutamente in questo caso è sempre un po' in questo paese in particolare insomma sì, è una situazione particolare, lo dicevamo già, insomma, chiariamo bene, questo presumibilmente, per essere chiari a che punto siamo, è uno spartiacque delle nostre vite e di un pezzo di storia italiana. Vogliamo chiarirlo bene, perché se no poi la dimensione di tutto questo non ce l'abbiamo chiara. Quindi, sapendo questo, sappiamo che è uno spartiacque. È una cosa che, se tutto andrà bene e tocchiamo ferro, racconteremo ai nostri nipoti. Gran parte di noi racconterà ai propri nipoti dicendogli: guardate, nell'arco della mia vita è successa questa cosa. Quindi teniamolo presente e teniamo presente che tutte le limitazioni, tutti i problemi che stiamo avendo, le questioni che abbiamo sono evidentemente collegate a questo. Grazie dunque ad Alfonso Castellone per essere stato con noi, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Castellone, buona giornata, buon lavoro e buona ricerca delle interpretazioni di questo decreto. Susanna Esposito, presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Disordini Immunologici, grazie anche a lei per averci dato un po' di chiarimenti. GR24, la rassegna stampa, continuate, poi ci sentiamo per la rassegna stampa, continuate a mandare i vostri messaggi al 349-238-6666, soprattutto in voce, WhatsApp audio, fatevi sentire.